ci vorrebbero tante cose. Una penna in tempo spose, una penna in tempo spose, le potrebbe carinar. Ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una bella certa sposa, una bella certa sposa. Le potute camminare. Vuoi bellezza, vuoi ricchezza, grazie, amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna singolar, è una donna, è una donna singolar. Vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi amore, vuoi amore, vuoi amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna, è una donna, è una donna singolar, è una donna singolar, è una donna singolar. E tutto a lei, e tutto a lei. Per esempio, io vorrei i due begli occhi. Son due stelle, son due stelle. Chiome. Nere. Guance. Belle. Chiome. Nere. Volto. Bello. E d'ogni parte a cui mi inciampo un po'. Che da dire che la pare. Caro amico, non ci scappo un po'. Se la vede che scappa, fammi comprare, ma dico che scappa, la vieni con la pace, la vede che scappa, che scappa, che scappa, che scappa, che scappa. Siamo giunti a mal partito. Perché? Non hai sentito quella brutta parola? E quale? Serraglio! Ebbene! Dunque, bersaglio, tu sarai d'un bei, d'un Mustafa. Sarà quel che sarà, io non mi voglio per questo attestare. La prendi così? Che ci ho da fare? Oh, povero Taddeo! Ma di me non ti fidi! Preso mai forse, anima mia, per un Pompeo, di quel tuo Cicisveo, di quel Lindoro. Io non ho visto mai il masso tutto. L'amai prima di te, non nego, a molti mesi che d'Italia è partito, e d'ora... E d'ora se ne zia la signora a cercare in Gallizia. E tu? E io, col nome di compagno, glielo dovea condurre. E adesso? E adesso, con un nome secondo, poi non serraglio a far, lo pensi il mondo. Meglio un turco, ciò rompere il fiasco, meglio il fiasco. Vanne al diavolo, in malora, più una donna di un nuovo del garrino. Buonanotte, sì signora, ho finito di impazzir. Vanne al diavolo, fuori in malora, ora più una donna ho finito di impazzir. No, no. Buonanotte, sì signora, vanne al diavolo, più una donna con il garrino. Oh. Ascoltami, italiano, un bascel venetiano riscattato pur ora deve momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar? Alla mia patria, a qual grazia, o oh signor, di più non chiedo. Che quel vira conduci e te il concedo. Che dici? Ma intanto del vascello il capitano a ricercare. E di a nome mio che egli fa non parta senza di voi. Io mi tolga umani a si odiato soggiorno, tutto deggio accettar, vado e ritorno. Dunque deggio lasciarmi. Nell'Italia tu sarai bene. Viva, viva il bene. E che direte a lì? Liete novelle, una delle più belle e spiritose italiane. Che belle. Caduta d'estè con altri schiavi è in nostra mano. Or mi tengo da più del gran sultano. E la vita adesso con l'italiano tu puoi apprezzarti a partire. Dulma, con essi tu pure andrai. Con questa signorina me la voglio godere. E agli uomini tutti oggi insegnar io voglio di queste belle a calpestar l'orgoglio. C'ha di solito d'ore nel vento, agitore a bambare mi sento, un ignoto sale contento, che mi trasporta e brillare mi fa. Ignoto soave contento mi trasporta e brillare mi fa. Un ignoto soave contento mi trasporta e brillare, brillare mi fa. Voi partite, ne più m'annoiate. Coppa secco, che scoglie, obbedite, ma secco, obbedite, voi la bella al mio seno guidate, ma prestate adorarla verità, voi la bella al mio seno guidate, ma prestate adorarla verità, sì la verità, sì la verità. L'acceso dormivo, questo caro trionfo l'ho detto, quanto dolce quest'arma sarà, al mio fuoco al trasporto al desio, non resiste l'acceso dormivo, questo caro trionfo l'ho detto, quanto dolce a quest'arma sarà. Voi partite, non noiate, obbedite, non noiate, o va seco, non va smarche, non vedite, non vedite. Al mio fuoco, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo novello quanto dolce a quest'alma sarà, quanto dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma. Come on. è già disposto l'ascello a salpar e non attende altri che noi. Voi sospirate. Almeno ch'io possa anche una volta riveder Mustafa. Pria di parti dobbiamo congedarsi da lui, ma se vi scaccia perché l'amate ancor, fate a mio modo, affrettiamoci parti di allegramente, e voi siete finalmente giovine, ricca e bella, e al mio paese voi troverete quanti può una donna bramar, mariti e amanti. Ma mi incanta, minna qualche pezzo la sole colo, ma conviene dissimulo, ma conviene dissimulo. Maltrattata dalla sole, condannata alle potete consolar. Mi salte letto nel petto, che dolce fa di parlar. Un camice per lotto, io mi può scappar, no. Io son del grande comodo, io mi so denar, no. Un camice per lotto, io mi può scappar, no. Io son del grande comodo, io mi so denar. O che muso sale, l'Italia ha bisogno di io so fa. O che muso, o che pezzo, che figura, o che pezzo, sta vedendo che io so fa. Sta bisogno di io so fa, si sta vedendo che io so fa. Sta vedendo, sta vedendo, sta vedendo che io so fa. Thank you.

Che cos'è stato? Abbiate compassione dell'innocente, io non ho fatto niente. Ma spiegati! cos'hai? Mi cornetto quell'amico del palo. Capisco, è questa la cagion del tuo spavento. Forse il palo in alceri è un complimento. Eccolo, ahimè! Non dubitare, e viene d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrar quanto mi cara tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan. Grazie, obbligato. Signor mio, col basti indosso, parlate di amore, e tutta la felicità, a tutto. che tu andassi in fondo al mare. Grazie! Quanti onori! Thank you. aspetta, tu non sei, uno non sei, uno non sei, ti suona ancora. Guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, tu non sei, uno non sei, uno non sei, ti suona ancora, ti suona ancora, ti suona ancora, ti suona ancora. Ah, colpa, bella, inchiata, una donna come lei, come lei, non ti ancora, non ti ancora, non ti ancora. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Ti presento di Per Taddeo, Caimacan, ti presento, Ser Taddeo, Caimacan. Faccio apprendi quanta stima di te pace musa fa. Faccio apprendi quanta stima Faccia di te faccia musa fa. Vai, matà, a me t'accosta il tuo muso fatto apposta. Caimacan, a me t'accosta il tuo muso è fatto apposta. Son salito ad alto onore. Hai capito? Questo cuore pensa adesso come sta. Hai capito? Questo cuore pensa adesso come sta. Questo cuore pensa adesso come sta. Questo cuore pensa adesso come sta. Quel vestito arrancato Thank you. Fra canti e suoni, piana tremolar del cuore.

per schiappar. Frate carissimi, fra voi son lieto di entrar merito nel vostro ceto, sarà una grazia particolar. Llegaron Di sentire non sentire sentir, io ritorno e poi scongiuro. Papà, cacino, sta fuori. E gli è fatto, e come fatto, e tagliata se ne va. Come, come, otro di cuore, presto, corre, veloce, corre. Questo salva questo qua la parte falsa la rinconce la parte falsa questo salva questo qua. Sposa mia non più italiane per la fede mi perdona 的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。